Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema che certamente intrigherà tutti i nostri ascoltatori e anche il sottoscritto, quello della passione per i libri, e lo facciamo con un libro di Andrea Kerbacher che si intitola Lo scaffale infinito, storie di uomini pazzi per i libri. Ci sono anche delle donne in questo libro, peraltro, aggiungo io. Il libro è pubblicato da Ponte alle Grazie, 262 pagine, 16,80 €. In questo libro si parte da una famosa frase della famosa scrittrice Margherita Yourcenar per trovare un bandolo nell'esperienza di tanti bibliofili isolati dall'autore, appunto per non essere dei morbosi collezionisti di libri, ma per perseguire, come scrive Kerbacher, lo scopo sociale, che è appunto quello di cui parlò la grande scrittrice francese quando parlò delle biblioteche come dei nuovi granai. E allora si parte da Francesco Petrarca in questo libro, che da giovane leggeva tanto che il padre, preoccupato che non seguisse gli studi di diritto ai quali era indirizzato, aveva cominciato addirittura a bruciargli i libri, e che mise insieme forse la più bella biblioteca del tempo. E poi tanti altri protagonisti, fino ad arrivare al giorno d'oggi, protagonisti di cui parliamo adesso con l'autore. Buongiorno ad Andrea Kerbacher. Buongiorno a voi. Andrea Kerbacher, qual è il personaggio più vicino alla sua sensibilità di collezionista che descrive nel suo libro? È una domanda difficilissima, perché sono 20 e sono come dei figli, tutti nel mio cuore, però poi c'è sempre qualcuno preferito. Allora direi che c'è questo americano che si chiamava Carnegie, che nato povero, emigrato negli Stati Uniti, diventato ricchissimo in poco tempo, a 50 anni decide di mollare tutto e con le ricchezze enormi che ha accumulato decide di fare biblioteche fisiche in tutto il mondo anglosassone, non solo, e ne costruisce 2500. Ecco, questo è veramente un'avventura straordinaria, l'industriale delle biblioteche, lo trovo un personaggio da romanzo. Poi c'è un personaggio milanese, uno dei primi che mette a disposizione i suoi libri, a disposizione del pubblico, cioè il cardinale Federigo Borromeo. Beh, grand'uomo per tutti quelli che hanno a cuore il Manzoni e non solo, grand'uomo anche perché non lo fa nel consenso generale, ma lo fa tra lo scetticismo, e lo fa tra l'altro mettendo a disposizione denari suoi, non quelli della Chiesa, quindi un uomo di potere che credo molto molto inattuale oggi, non solo che non ruba i soldi che potrebbe avere, ma anzi addirittura usa soldi suoi dove in fondo legittimamente potrebbe usare quelli della comunità. È la sua opera continua nella biblioteca ambrosiana. Assolutamente, bellissimo posto, se non ci siete andati raccomando di farlo, perché è un'oasi di pace ancora oggi. Un'altra grande collezionista, una donna famosa, è Caterina di Russia. Che cosa ci racconta di questo personaggio? È una zarina che però, come spesso accade alle donne di potere che non nascono donne di potere ma lo diventano per matrimonio, ha una prima parte molto contrastata, addirittura il figlio le viene tolto per essere cresciuto dalla nonna, quindi non è molto ben voluta, e in qualche modo si rifà quando diventa zarina e ha tutti i poteri collezionando, colleziona grandi opere d'arte, e l'Ermitage è ancora lì a dimostrarcelo, e colleziona addirittura intere biblioteche, nel senso che si appassiona all'opera dei filosofi, e siamo nell'epoca della pre-rivoluzione francese, e comincia a sovvenzionarli comprando intere biblioteche loro, che oggi sono ancora a San Pietroburgo, sono a disposizione nostra. Sento molto apprezzato il suo sforzo riuscito, devo dire, di riabilitare una figura di cui si parla sempre male, il povero conte Monaldo Leopardi, il papà di Giacomo, che era un grande collezionista di libri. Povero Monaldo, sì, era un grande collezionista ed era un uomo molto meno peggiore di quello che il figlio abbia immaginato e come l'ha poi dipinto in realtà. Per cui noi a scuola cresciamo pensando che fosse un uomo terribile, era un uomo molto reazionario, molto chiuso politicamente, direi schierato in posizioni che già allora apparivano inaccettabili, però era un uomo, a vederlo dalla sua corrispondenza privata, con una sua generosità, e una cosa che il figlio, forse nessun figlio riesce a cogliere, ma certamente Giacomo ci ha messo del suo per non cogliere nulla se non la meschinità. E quindi ho cercato di proporre una chiave di lettura un po' diversa, ma non solo perché raccoglieva libri, proprio mi sembrava giusto nei confronti di un uomo che ha commesso un grande errore nella vita, far nascere un figlio così importante e così schiacciante. Ecco, poi c'è un capitolo che non è dedicato a un personaggio, ma a un'esperienza drammatica, tragica, potremmo dire, quella dei roghi dei libri. La terra desolata, lei intitola questo capitolo. Sì, i roghi dei libri, naturalmente emblematico, quello da cui parto, è quello del 33 famoso, quello che avviene in Germania per opera di Goebbels e dei nazisti, che è praticamente il loro biglietto da visita nei confronti del potere, ed è tra l'altro particolarmente drammatico perché 100 anni prima un grande poeta tedesco, Heine, aveva detto una frase in una sua poesia clamorosamente profetica, cioè là dove si bruciano i libri poi si bruceranno anche gli uomini, e questo alla luce di quello che è avvenuto dell'olocausto eccetera appare come una capacità di prevedere il futuro addirittura drammatica. Infatti oggi quando si va a Berlino e si vede un monumento che io descrivo abbastanza nel libro perché mi ha molto colpito, un monumento abbastanza recente che ricorda quel rogo, accanto c'è questa frase, indubbiamente, credo che sia una delle buone testimonianze contro il totalitarismo e il nazismo in particolare. L'ultimo capitolo del suo libro è dedicato a un italiano, Umberto Eco, un grande collezionista dei nostri tempi che continua la sua opera. Eco è un grande collezionista, è un collezionista in qualche modo pop, cioè di tutti questi personaggi forse è uno di quelli che è diventato più popolare anche a larghe fasce della popolazione che il collezionismo di libri o in generale non sanno neppure cosa sia, però è un personaggio quindi che ha portato anche gli argomenti del collezionismo in mezzo a noi con i suoi articoli sui giornali, con la sua testimonianza, con il suo umorismo, perché viva Dio è un uomo anche ironico che sa trovare sempre un po' di sale nelle storie che racconta, l'ha fatto come narratore e lo fa anche come collezionista e quindi ha una bella collezione, naturalmente la sua è ancora sua, non è ancora diventata pubblica, ma speriamo che riesca a diventarlo come lui stesso auspica, così avremo un altro piccolo mattone contro questa inciviltà che è poi la chiave di lettura di tutti i personaggi che io cerco di raccontare. Ecco, quindi qual è che cosa hai imparato da questo viaggio? Qual è la ragione che si può trovare nella follia di collezionare libri? Beh, la ragione è appunto quella di vivere in un presente che non ci piace, questo è quasi banale, tutti noi abbiamo parecchi motivi di insoddisfazione, e cercare di mettere una barriera, diceva Margherita Ossenari in una frase rimasta famosa, costruire granai, fondare biblioteca. Ecco, tutti questi personaggi vogliono fondare dei granai e c'è una buona notizia anche per noi italiani. Molti di loro sono italiani, quindi come sempre quando poi si analizzano le cose, a dispetto delle apparenze, il nostro paese nel passato ma anche nel presente finisce appunto nel nome di un italiano, Eco, e non è perché l'ha scritto un italiano il libro, è perché mi pareva una verità incontrovertibile, l'Italia alla fine se la cava e ci fa un'ottima figura. Grazie ad Andrea Kerbacher, autore dello Scaffale Infinito. Buona domenica. Grazie a voi. Un appassionato collezionista e fondatore di biblioteche fu John Pierpont Morgan, un banchiere e imprenditore americano, uno dei creatori della potenza degli Stati Uniti, al quale è dedicato il libro di Hans Tuzzi, un autore che si è spesso cimentato con temi legati alla bibliofilia. Il libro si intitola Morte di un magnate americano, è pubblicato da Schirà, 172 pagine, 15 euro. Chi va a New York senz'altro potrà andare a visitare la Morgan Library, almeno io raccomando molto questa visita, è proprio sotto l'Empire State Building ed è una costruzione bellissima, fra l'altro è stata recentemente rinnovata nel segno di Renzo Piano. E quella è la casa museo appunto del protagonista del libro, che raccolse una delle più imponenti e preziose collezioni librarie al mondo, con capolavori assolutamente unici raccolti con un fiuto anche commerciale, di cui danno prova queste righe in cui compare un famoso libraio di Firenze. Allora, vediamo. Era il 1900 quando acquistai in blocco la biblioteca di Theodore Irwin. Il catalogo comprendeva la prima edizione a stampa di Iliade e Odissea in greco. Un tipografo fiorentino, credo, anno 1489. E tre libri stampati da Caxton. Quali? Non ricordo. Mi ha sempre accusato di comprare a blocchi e di non essere un lettore. Idioti, bisogna leggerlo un libro antico? Non basta guardarlo? O forse voi pranzate nei servizi di Sèvres di 200 anni fa che avete comprato pagandoli quanto un appartamento dell'East Side? Belle lavorava per me da 2 anni e non ne aveva compiuti 25. Aveva appena respinto un De Oratore del 1486 al libraio fiorentino Olschi. Voleva 8.000 franchi. Troppi. 8.000 franchi erano 1.600 dollari. Ne avevo appena messo 1 milione come capitale sociale di una delle mie banche. Ma questo non vuol dire. I milioni si fanno evitando di sperperare le migliaia. In realtà Bell trovava Olschi insopportabilmente felpato e servile. Quell'uomo però mi aveva sempre servito bene. E l'anno dopo, per lenirne la suscettibilità, acquistai diversi volumi da lui, ma senza mediazioni di Bell. Così ora il mio è in America l'unico De Oratore del 1486. Che cosa sono, al confronto, 1.600 dollari? E nel libro Morgan è al termine della sua vita, che avvenne a Roma nel 1913 al Grand Hotel, e alterna proprie riflessioni in prima persona alla narrazione del suo segretario, ispirato proprio a quegli ultimi giorni. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di una questione che pure ci sta a cuore assieme a quella dei libri, cioè il denaro, senza il quale non potremmo comprare i libri. E soprattutto parliamo del modo in cui si è imposta la finanza dando vita al moderno capitalismo. E vi segnalo quindi il libro di Alessandro Marzo Magno, studioso di storia, in particolare di cose venete, che si intitola L'invenzione dei soldi, pubblicato da Garzanti, 282 pagine, 22 euro. Il libro è molto divulgativo, di lettura gradevole, ma molto approfondito nel tema che tratta. Si parte da Carlo Magno, che ripristina nell'impero il mezzo utilizzato dai romani, che si era un po' perso dopo la fine dell'impero. In Italia la moneta prende piede perché l'economia che rinasce ha bisogno di un mezzo di pagamento, e poi naturalmente con lo sviluppo appunto dell'economia, della finanza, ogni grande centro commerciale comincia a battere la sua moneta, Genova, Firenze, Venezia e così via. E nascono allora le banche, non solo, ma anche molti strumenti finanziari e le prime tecniche finanziarie come la famosa partita doppia. E questa evoluzione ha proprio in Italia, anzi Lombardia e in Toscana, il suo epicentro, come dimostrano queste righe dove troviamo già un marchio, anzi un paio di marchi che ci sono familiari. Toscana, le cose cambiano. Oggi esporta vini in tutto il mondo. 800 anni fa, invece, esportava banche. Il primato nella finanza di questa parte d'Italia è ben stampato nella mente degli architetti americani Edward York e Philip Sawyer, quando ricevono l'incarico di costruire la sede della Federal Reserve di New York. Il progetto, realizzato tra il 1919 e il 1924 in Liberty Street, si ispira in tutta evidenza ai palazzi fiorentini e in particolare a quello degli Strozzi, grande famiglia di banchieri. Tra il XII e il XV secolo, la Toscana si è ritrovata a essere l'area a maggiore intensità finanziaria del globo, e prima di cedere lo scettro a Firenze, la città di Siena, per oltre 75 anni, ha occupato il gradino più alto del podio dei principali centri bancari d'Europa. Non è affatto un caso, quindi, che la banca più antica del mondo ancora operativa ai nostri giorni, con sportelli, bancomat e tutto il resto, si chiami Monte dei Paschi di Siena. Fondato nel 1472, l'istituto senese ha sì battuto ogni record di longevità, ma va considerato un giovincello rispetto ai suoi progenitori, più vecchi di un paio di centinaia d'anni. Il credito comunque non germina in Toscana, ma ci arriva dopo aver fatto un lungo giro, che transita prima per Roma e poi per Genova. La banca nasce italiana, e italiana rimane fino alla fine del 400. Ancora una volta, non per caso, al secondo posto per longevità si piazza la genovese Banca Carige, che affonda le sue radici nel locale Monte di Pietà, aperto nel 1483 e opera ancora oggi. Di questo libro parleremo a Milano lunedì prossimo alle 18.45 al Teatro Franco Parenti, dove discuterò di questi temi con l'autore. E sul denaro, non solo quello creato in Italia, vi ricordo il libro di Alberto Mingardi, L'intelligenza del denaro, perché il mercato ha ragione anche quando ha torto, è pubblicato da Marsilio, 334 pagine, 21 euro. Questo è un appassionato saggio per dimostrare i vantaggi dell'economia di mercato, con alcuni riferimenti anche alla situazione attuale, una situazione che sembrerebbe mettere in discussione il modello dell'economia di mercato e le sue virtù. Ma l'autore smonta questa preoccupazione e scrive appunto che sui mercati finanziari la rapidità con cui avvengono gli scambi è di gran lunga superiore, perché non si acquistano beni ma ipotesi sul futuro. La produzione di conoscenze, ancora più importante, richiede regole certe e sanzioni chiare. Invece, continua, ci sono state non regole ma solo eccezioni. L'emergenza ha consentito agli attori pubblici di fare il gioco di Caligola decretando morte o sopravvivenza degli attori finanziari. Come dire che è stata la mancanza di mercato che ha aggravato la crisi. Torniamo alla storia da cui siamo partiti con il libro di marzo e vi propongo una serie di ritratti dedicati a 17 personaggi che hanno vissuto a fianco di uomini di potere esercitando spesso esse stesse un grande potere. Parliamo infatti di donne. Il libro si intitola Le signore dei signori della storia, è curato da Anna Maria La Serra, pubblicato da Franco Angeli, 314 pagine, 35 euro. Queste sono donne, spiega la curatrice, che hanno in comune l'aver occupato il proscenio o anche le quinte della storia, in quanto madri, figlie, mogli, amanti e in alcuni casi come alter ego di uomini che hanno di volta in volta dominato la scena politica. E chi sono? Beh, c'è una panoramica molto ampia, si va da Hatshepsut, vissuta nel 1500 avanti Cristo in Egitto, che fu regina e grande sposa reale che accentrò un enorme potere alla morte prematura del marito faraone. Poi si parla di altre figure più note come Agrippina, la più famosa signora della politica giapponese, Asako, vissuta nel 1100 d.C., fino ad arrivare poi a nomi ancora più vicini a noi, come quelli di Eleanor Roosevelt e delle mogli di Nelson Mandela. Ci sono vari profili di queste donne, quelle che vissero di fronte o a fianco dei loro signori, quelle che vissero nel loro raggio risultando condizionate dall'operato dei propri mariti e poi anche quelle decisamente succubi oppure addirittura cancellate. Qui ne abbiamo di queste figure un ampio florilegio appassionante e istruttivo. Ultimi arrivi. Comincio con i titoli di due giornalisti, il primo è quello di Gino Nebbiolo, corrispondente del TG1, il giro del mondo in 50 anni, guerre e incontri di un inviato speciale, Cairo, 352 pagine, 16 euro, dal 50 oggi, la cronaca di un giornalista famoso il cui mestiere aveva incuriosito un imprenditore nonché nobiluomo che, intervistato agli inizi della sua carriera da Nebbiolo, alla fine dell'intervista aveva chiesto al giovane giornalista se fosse pagato, non capacitandosi che quello di fare delle domande a delle persone potesse essere un mestiere degno di essere appunto retribuito. L'altro giornalista è Aldo Maria Valli, che quest'anno ha pubblicato molti libri. L'ultimo è Il forziere dei papi, storia, volte e misteri dello Iorre, pubblicato da Ancora, 232 pagine, 16 euro. Un libro che vuole spiegare dall'interno che cosa sia la famosa banca americana. E si parla di Iorre anche nel libro di un altro giornalista, Massimo Franco, La crisi dell'impero Vaticano, pubblicato da Mondadori, 140 pagine, 17,50 euro, nel quale l'autore ci presenta i temi che hanno agitato il Vaticano e probabilmente contribuito alle dimissioni di Papa Ratzinger. Poi un classico del Novecento, La luna e i sei soldi di Somerset Maugham, con la traduzione di Franco Salvatorelli, pubblicato da Adelphi, 240 pagine, 12 euro. Un libro del 19, certamente uno dei più celebri del secolo scorso, è ispirato alla vita di Gauguin. E infine, di un autore italiano tra i più popolari, Antonio Moresco, vi segnalo La Lucina, pubblicato da Mondadori, 168 pagine, 10 euro, dove si parla di un incontro propiziato da un lume misterioso tra un vecchio e un bambino, un incontro che diventa la metafora della vita e dell'universo. E a questo punto... Il confettino. Ci avviamo alla conclusione del campionato di calcio, allora vi segnalo il libro di Mario Corte, Serie A, è pubblicato da Einaudi Ragazzi, 156 pagine, 10 euro, dove troviamo il sogno di Gianni, che è quello di arrivare a giocare in Serie A, un sogno che lo farà maturare, esponendolo anche a tanti colpi di scena e a tante prove della vita. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, vi do appuntamento la settimana prossima.